Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Tornano con la prima puntata di aprile le nostre rubriche su controesodati e opportunità in Cina. E vi rinnoviamo soprattutto l'invito a sfruttare l'intero mese per candidarvi alla nostra iniziativa Giovani Talenti in Europa 2016, che porterà 4 ascoltatori a Strasburgo. Un'occasione davvero imperdibile per visitare il Parlamento Europeo e portare le vostre proposte sui giovani direttamente agli eurodeputati. Tra poco tutti i dettagli. Infine, con la storia della settimana ci trasferiamo in Svezia per raccontarvi come si fa ricerca in Scandinavia. La frase di questo sabato è copyright della regista Giovanni Veronesi, che ha iniziato le riprese del suo prossimo film Non è un paese per giovani, pellicola che racconterà, tra le altre cose, la fuga degli under 40 dalla penisola. Più di 100.000 ragazzi l'anno se ne vanno dall'Italia in silenzio, senza fare rumore. È un lento ma inesorabile esodo che porterà alla mancanza di tasselli fondamentali in alcune generazioni del futuro. Non voglio perdere di vista il momento storico in cui viviamo, voglio raccontarlo attraverso questo delicato argomento. In questo momento l'Italia vive una difficile situazione per quanto riguarda l'immigrazione, ma si disinteressa totalmente di un altro aspetto, che è l'emigrazione dei nostri ragazzi messi alle strette, obbligati ad andare a cercare i propri sogni all'estero, così Veronesi. L'Occidente ha tradito i suoi giovani, accusa intanto un'inchiesta realizzata dal giornale britannico The Guardian, secondo cui la generazione dei cosiddetti millennials in Europa e negli Stati Uniti si ritrova a guadagnare molto meno rispetto ai padri e ai nonni e ad avere minori prospettive. Tra le ragioni di quella che il giornale britannico definisce come una tempesta perfetta generazionale, l'indebitamento, l'occupazione precaria e le conseguenze negative della globalizzazione. Laddove 30 anni fa i giovani adulti guadagnavano di più rispetto alla media nazionale, oggi in molti paesi devono accontentarsi di redditi più bassi del 20%. In particolare, questo sta accadendo negli Stati Uniti e in Italia. E non parliamo poi di chi lavora nella ricerca. Ho scoperto il piacere di fare ricerca e non ero convinto di poterlo riuscire a fare in Italia. Francesco Ometto, 30 anni e un postdoc in Svezia, della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. In apertura due flash. Superata quota 1 milione di giovani italiani iscritti al programma Garanzia Giovani, il governo punta a rendere strutturale questo programma europeo, ha affermato il ministro del lavoro Poletti, e aumenterà il numero di universitari che potranno ottenere borse di studio. Il ministro Giannini ha annunciato l'innalzamento delle soglie ISE e ISPE per l'accesso alle borse, 23.000 e 50.000 euro. Contro esodati, al suo 7° appuntamento mensile, vi racconto oggi la storia di una giovane professionista rientrata nella penisola dopo diversi anni passati in Spagna. Vi ricordiamo che la rubrica è realizzata in collaborazione con Alessia Marsigaglia dell'associazione iTalents, dal cui network attingiamo le storie che vi raccontiamo per info italents.org. Ora ascoltiamo la storia di Chiara Ticchi, 33enne corporate marketing manager, che ha scelto di andare controcorrente tornando in Italia. Sentiamo perché. Io ho aderito al progetto Erasmus quando ero all'università, quindi ho frequentato l'ultimo anno di università a Barcellona. Dopodiché, essendo appunto gli anni d'oro un po' in Spagna, diciamo, mi sono subito resa conto che l'ambiente era particolarmente fervente e ricco di opportunità, e mi ha colpito anche molto il fatto che fosse un sistema un po' più meritocratico rispetto a quello dell'Italia. Diciamo, mi sono resa conto che probabilmente sarebbe stato più ricca come esperienza appunto in Spagna, per cui dopo essermi laureata ho mandato qualche curriculum e sono stata presa come stagista in una piccola agenzia di comunicazione. Negli anni in Spagna poi hai cambiato varie aziende, anche se è cresciuta professionalmente. In breve? Sì, sostanzialmente ho fatto questa esperienza di un anno in questa piccola agenzia di comunicazione, dopodiché ho lavorato per un anno in G2, che è la parte digital dell'agenzia americana Grey Trace, per la quale seguivo solo ed esclusivamente il coordinamento internazionale di SEAT. Dopo questa esperienza sono stata 7 anni presso Roca, agli headquarters a Barcellona, quindi ero proprio negli headquarters. E poi hai deciso di tornare in Italia, perché? Ho deciso di tornare in Italia perché, diciamo, la crisi del 7° anno, ma anche la crisi che ha colpito la Spagna, è stata abbastanza dura, per cui dopo 7 anni avevo anche un po' la voglia di crescere ulteriormente dal punto di vista professionale, a ampliare un po' anche le mie mansioni, per cui ho iniziato a guardarmi intorno, sempre nel contesto Spagna, nel contesto Barcellona. Non ho trovato tante possibilità, quindi ho spaziato un po', più verso anche l'Inghilterra, ma ho iniziato anche a valutare un rientro in Italia un po' per diciamo, la prossimità con la mia famiglia. Dopo 10 anni, insomma, avevo un po' anche questo sentimento, diciamo, questo un po' di nostalgia, appunto, di poter prendere la macchina e andare a trovare, per esempio, i miei genitori. E arriva l'offerta dall'Italia. Come corporate marketing manager presso Ariston Thermo, mi è parsa un'offerta molto interessante, e per cui ho dato una seconda opportunità al mio paese, dal quale ero scappata 10 anni prima. Al di là dell'opportunità professionale, però, tu descrivi un rientro traumatico in Italia. Questo perché è difficile riadattarsi alla nostra cultura dopo essere stati all'estero? Sì, è molto molto difficile, nel senso che comunque ci si sente stranieri nella propria patria. Ci si è abituati comunque a un sistema, a una società, a delle dinamiche comunque molto diverse, perché nonostante tutti credano che la Spagna e l'Italia sono, diciamo, simili come cultura, in realtà anche a livello, soprattutto a livello burocratico, ci sono molte differenze. Per cui io sono cresciuta in un contesto che mi ha fatto abituare a determinate situazioni che non ho più ritrovato in Italia, e quindi mi sono sentita molto molto spiazzata. In due parole, cosa ti manca di più dell'estero? È l'apertura mentale. Barcellona è comunque una città estremamente cosmopolita, e in cui si respira un senso di libertà maggiore rispetto a quello che sto vivendo a Milano. Siete controesodati? Volete raccontarci il vostro rientro nella penisola? Scriveteci giovanitalenti@radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a latitudini nordiche, rotta verso la Scandinavia, Svezia, per essere precisi. Nome: Francesco. Cognome: Ometto. Età: 30 anni. Città di origine: Padova. Studi: ingegneria ambientale a Padova. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? In Inghilterra. Perché? Completare gli studi con un dottorato di ricerca. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono in un'azienda come project manager e allo stesso tempo ricercatore all'università. Dove? In Svezia. Tornerai? Forse nel lungo termine. I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards. Tanti sono i ricercatori italiani che si spostano, ma tanti sono anche i ricercatori che vengono nella penisola. La differenza è che una volta terminata la borsa di studio, gli italiani spesso continuano a stare all'estero, mentre gli stranieri in Italia non hanno altra scelta che rientrare nel loro paese. Così chiarisci in modo netto e inequivocabile, Francesco, chi sono, a tuo modo di vedere, i veri cervelli in fuga. Non gli italiani, ma gli stranieri che lasciano l'Italia. Perché, ti chiedo, siamo così poco attrattivi per loro? Io credo la differenza sostanziale sia il fatto che all'estero si crea opportunità in maniera più dinamica. La stretta collaborazione tra università e aziende crea la possibilità di nuovi progetti, anche magari brevi, ma uno dietro l'altro, diciamo. Dopo questo inizio, riflessione un po' a sorpresa, se vogliamo torneremo comunque sul tema. Prima però, la tua storia: all'università scegli ingegneria ambientale, perché? È già sofferta come sempre. Una volta scelta il ramo dell'ingegneria, è stata per me la possibilità di trattare tematiche nuove, quali il bene comune, sviluppo sostenibile, green economy, che sentivo vicine, per cui è stato un po' coltivare una mia passione. Fortunatamente la laurea specialistica in lingua inglese ti apre le porte di una carriera internazionale. L'occasione arriva, come ormai sempre più spesso capita, con Erasmus, che ti porta alla Cranfield University, Gran Bretagna. All'inizio non ero molto convinto, ricordi con un po' di ironia. Quale mondo della ricerca e quali laboratori scopri oltre Manica? Subito mi sono trovato in un ambiente che mi ha dato possibilità di mettere in pratica quello che avevo studiato, per cui ho imparato fin da subito ad arrangiarmi, diciamo così, e a provare, sperimentare, sbagliando, ma è andata bene alla fine. Nella nostra università italiana, un laboratorio vero dove potersi applicare in libertà non c'era. In Inghilterra tutto a un tratto cominciato ad avere senso. 7 mesi dopo il rientro dall'Erasmus, ti lauri, siamo nel marzo del 2010. Qual è il tuo voto finale e definitivo alla nostra università, da 1 a 10? Do comunque un 7. Perché? Perché il corso era ben organizzato e appunto puntava anche Il fatto di essere fatto in inglese ha aperto possibilità a docenti esteri di venire a fare delle lezioni. Un'unica carenza, appunto, è la mancanza di laboratori pratici che a suo tempo non erano disponibili. Così giunsi alla fatidica domanda: cosa fare dopo la laurea? Ti chiedi, domanda che ti accomuna ad altri milioni di coetanei. Le alternative sono il lavoro in azienda come ingegnere o restare in università. Scarti, preventiamolo subito, sia il lavoro in azienda sia il restare in Italia. Allora ti chiedo perché. Due fattori principali. Uno, quella che viene definita crisi post-Erasmus. Una volta passati questi 6 mesi in Inghilterra, respiri un'area molto più internazionale, per cui restare in Italia sembrava un po' un perdere qualcosa. Dall'altra, ho scoperto il piacere di fare ricerca e non ero convinto di poterlo riuscire a fare in Italia. Dopodomani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello. Fare il dottorato in Italia mi avrebbe fatto sentire un po' prigioniero di un sistema che non mi avrebbe lasciato libertà di inventiva, rifletti. Poi il caso vuole che si apra per te la possibilità di partecipare a un progetto europeo che coinvolge 4 università attraverso la borsa Marie Curie. Spieghiamo subito qual è la particolarità dei bandi di Marie Curie. Sono bandi che puntano alla mobilità in Europa, quindi c'è bisogno di spostarsi e andare su un'altra nazione che non è quella di residenza. Questo è importante. Allora, mobilità è la parola chiave. Dove ti porta il bando e soprattutto per fare cosa? Sono ritornato in Inghilterra per completare il dottorato su energie alternative, in particolare dalle alghe. Anni fantastici, così ricordi, 3 anni e mezzo oltre manica impari soprattutto a fare ricerca applicata. Quale immenso valore aggiunto questo porta al tuo curriculum? È la possibilità poi appunto di riuscire a scambiare tra quello che è l'ambiente accademico e l'ambiente aziendale con molta più facilità. Alla fine del dottorato le posizioni aperte nell'Ateneo Britannico languono, non c'erano nuovi progetti in arrivo per avviare un postdoc. Così come capita spesso a voi ricercatori, torna a porsi il tema della mobilità. Ancora una volta la via italiana si riaffaccia, stavolta però sono i tuoi stessi amici e compagni di laurea a sconsigliartela. Con quali motivazioni? Il motivo principale era un ambiente poco dinamico, torniamo ancora su questa parola. Quasi tutti, anzi direi tutti i miei compagni avevano un lavoro, però lo sentivano un po' stretto e insicuro. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Pantera Millesimato, l'IRP di Infracom Italia, per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta... Recupera, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito! Campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Francesco Metto, ricercatore postdoc di 30 anni a lavoro in Svezia. Francesco si laurea in Italia ma orienta il proprio percorso di carriera prima in Gran Bretagna per il dottorato, poi in Scandinavia per il postdoc. Non è tanto preoccupato dalla fuga dei cervelli dalla penisola quanto piuttosto dall'incapacità italiana di trattenere i pochi cervelli stranieri che scelgono il nostro paese, e ha molto da dirci sulla ricerca nel Nord Europa. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. La tua riflessione è semplice: non valeva la pena tornare in Italia con un dottorato che non sarebbe stato poi valorizzato. Meglio restare ancora qualche anno all'estero, consolidando il proprio background. Come approdi allora in Svezia e quale ruolo svolge ancora una volta il programma Marie Curie? Nuovamente è stata un po' la mia fortuna. Tramite i contatti che avevo sviluppato in Inghilterra sono venuto a conoscenza di questo nuovo bando, che un po' continuava sul filone della ricerca che avevo sviluppato in Gran Bretagna. Per cui ho fatto domanda e ce l'ho fatta, ho vinto. Di cosa ti occupi attualmente e per chi lavori? Scandinavian Biogas, questa azienda che produce energie dalle biomasse. E allo stesso tempo sono inserito all'università dove faccio lezione su sempre energie alternative, lavoro con gli studenti, tesisti e cose del genere. È molto bello e interessante perché appunto sei vivi fra due mondi, così come dovrebbe essere, e stai sperimentando in prima persona cosa sia la ricerca applicata, tema di cui si discute tanto in Italia, ma forse la si applica ancora troppo poco qui nella penisola. Questo tipo di ricerca può rappresentare un enorme valore aggiunto per il nostro paese sulla base della tua esperienza? Assolutamente sì, il riuscire a creare possibilità tra aziende e università è una necessità indispensabile. Questo perché le aziende non riescono, non hanno fondi, non hanno neanche la possibilità di investire nella ricerca quando sono da sole, per cui affiancate all'università portano le domande concrete che l'università poi può sviluppare. Torniamo al tema cervelli in fuga, se ne è parlato molto anche pochi mesi fa col caso di una tua collega in Olanda che non le ha mandate a dire al ministro Giannini quando quest'ultima si è felicitata per le borse italiane dello European Research Council. Tu come vedi la questione? Io rimango sempre con un orgoglio nazionale, per cui in realtà ogni tipo di risultato che ha un po' d'Italia secondo me è positivo. Certo, quando questi risultati si sarebbero potuti ottenere in Italia è un dispiacere. Ricordiamo però che magari la maggior parte o metà dei ricercatori all'estero lo fa anche per scelta, per carriera professionale. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire, Francesco? Io credo basti poco per lasciare che l'Italia usi le sue risorse, specialmente dal punto di vista di ricerca, per prendere un po' il volo. Ecco, spesso tutto viene lasciato un po' a un posticipare quelle che sono alternità e possibilità. Collaborazione università-aziende, certo, è una via di sviluppo. Ci raggiunge ora in linea Anna Laura Eusebi, anche lei ricercatrice e collega di Francesco, a differenza sua, però lei ha scelto di tornare in Italia. Buon pomeriggio, Anna Laura. Buon pomeriggio a voi. Il terreno d'incrocio della tua storia con quella di Francesco è l'Università di Cranfield, dove hai svolto 10 anni fa 8 mesi di lavoro all'interno del tuo dottorato. Anche per te alle spalle è una laurea in ingegneria ambientale e ti chiedo perché hai scelto la Gran Bretagna all'epoca per il placement del dottorato. In realtà la scelta è stata legata più che altro a contatti del mio gruppo di ricerca di partenza. A suo tempo l'Università di Cranfield e il mio gruppo di ricerca lavoravano su linee comuni legate al recupero del fosforo. Poi ovviamente il fatto che sia un paese di lingua anglofona assolutamente è stato attrattivo. La domanda che già in molti ti avranno fatto: perché nonostante le proposte ricevute per restare hai deciso di tornare nella penisola? Principali sono due. Da una parte io vengo e lavoro tuttora con un gruppo di lavoro abbastanza entusiasmante, molto vivo, che ha sempre avuto comunque aperture internazionali. Dall'altra parte non nego che ritengo che comunque il paese abbia una qualità di vita superiore in termini proprio di relazioni sociali, di spunti culturali, di socialità di scambio. Di cosa ti occupi adesso? Io adesso sono un ricercatore a tempo determinato di impianti chimici e ambientali. Allora Anna Laura, ci sono due riflessioni che emergono prepotentemente dalla lettera che hai inviato a giovani talenti @radio24.it. La prima riguarda lo stereotipo del cervello in fuga che tu combatti, evidenziando invece l'eccellenza che resta in Italia. Allora, chi sono questi giovani che anche con merito rimangono a fare ricerca nella penisola? Ci sono tantissimi giovani in gamba che vanno all'estero. C'è da dire che però non deve diventare una semplificazione e una squalificazione di quelli che restano, anzi tutt'altro. Io credo che ci siano dei settori in Italia, soprattutto a livello di ricerca, estremamente avanzati. A questa Italia positiva tu contrapponi l'altra faccia della medaglia, quella classe dirigenziale ai vertici di troppi enti, aziende, università, fatta di anziani radicati, ingessati, inchiodati in tutto, gruppi di potere senza una visione, che restano lì ipertutelati e ipertutelanti solo dei loro piccoli interessi, così ci scrivi, definizione che considero straordinaria perché fotografa questa pseudo classe dirigente. Come la eliminiamo questa zavorra? Io credo che il cambio debba essere fatto da dentro, per questo motivo è uno dei motivi per cui sono rimasta, insomma, individuare una prospettiva di futuro, cioè cambiare l'approccio. A livello universitario c'è una situazione proprio assolutamente bloccata, nel senso che ci sono alcuni gruppi molto radicati che portano avanti determinate scelte nonostante quelle che possano essere le necessità effettive che possa avere il paese. Anna Laura, comunque, in bocca al lupo perché c'è molto lavoro da fare per sradicare questo sistema baronale. E domanda di rito per Francesco Ometto: quale considereresti un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Io consiglio di fare sempre un'esperienza all'estero. Certo, questa va pianificata in anticipo, non si può pensare al giorno d'oggi di prendere la valigia, spostarsi e cercare di trovare la fortuna. Continua anche ad aprile l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 14 maggio, 10 settimane, e che da quest'anno vi chiede di immaginare la vostra Europa. Nelle prossime settimane sceglieremo 4 di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare dovete avere tra i 18 e i 35 anni e dovete inviare da ora fino alla mezzanotte di domani una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. il tema di questa settimana. Indicateci una proposta in 140 caratteri per trasformare e rinnovare il progetto Garanzia Giovani Europea, ampliandolo ulteriormente su scala continentale. Quindi proposta per trasformare e rinnovare Garanzia Giovani, ampliandolo ulteriormente. Inviateci le vostre proposte con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatelo su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione, potete scriverci solo fino alla mezzanotte di domani e nell'oggetto non dimenticate la parola chiave che è Europa 101, ripeto, Europa 101. I primi quattro classificati si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo. Ancora una volta la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Torna all'appuntamento con la consueta rubrica mensile Lidogramma, osservatorio sulle opportunità in Cina. Emanuela Verrecchia oggi ci parla delle possibilità professionali nella ricerca e sviluppo di un settore realmente particolare, la meccanizzazione agricola in Estremo Oriente. Una delle ultime interviste che ho realizzato per Cina di Frontiera racconta la storia di Alessio Pulcini, un ingegnere che è arrivato in Cina nel 2012 e che oggi, a 38 anni, è direttore della ricerca e sviluppo per lo stabilimento cinese della SDF, multinazionale italiana leader nella produzione di macchinari agricoli. A maggio 2015 il Consiglio di Stato cinese ha dichiarato nel piano Made in China 2025 che la Cina oggi non mira più a essere la superpotenza del manifatturiero, ma entro 10 anni vuole essere leader mondiale nell'innovazione e ha identificato 10 settori di primario interesse in cui intende emergere. Tra questi c'è la meccanizzazione dell'agricoltura, un settore in cui l'Italia è all'avanguardia sia per i numeri dell'export sia per la diversificazione e la qualità dei macchinari agricoli. Per fare innovazione vera la Cina non sempre dispone di sufficiente know-how né ha ancora acquisito quell'approccio alla ricerca che fa fare il salto di qualità. Ma si avverte comunque l'apertura del mercato del lavoro cinese ad accogliere esperti stranieri che aiutino il paese a progredire in questa direzione, portando conoscenza e insegnando un approccio più occidentale per fare innovazione. Racconta Alessio Pulcini, a Cina di Frontiera, lo sforzo maggiore è stato cercare di cambiare il loro approccio al lavoro e stimolarli a provare a usare di più. I cinesi hanno molta paura di sbagliare, il livello di partenza era piuttosto basso, quello che per me era scontato a loro sembrava la scoperta che avrebbe rivoluzionato il mondo della meccanizzazione agricola. La mia impressione è che l'università in Cina sia piuttosto scadente, non insegna a ragionare, non insegna a lavorare. Per concludere, quindi, nonostante il cerchio di possibilità per venire a lavorare in Cina oggi si sia sensibilmente ristretto rispetto a 5-10 anni fa, perché è diventato più selettivo, c'è certamente ancora spazio per giovani e anche per meno giovani che possano e vogliano contribuire a portare innovazione nei settori che alla Cina maggiormente interessano. Per maggiori informazioni potete consultare il blog Cina di Frontiera all'interno del portale China Files. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Giovani Talenti UE, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internettivo, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di aprile, al di là delle mete più classiche come Gran Bretagna, Germania o Stati Uniti, quali sono a vostro parere i paesi nel mondo dove consigliereste un espatrio in termini di maggiori opportunità e di, se vogliamo, originalità della scelta? Quali sono insomma le nuove frontiere in un mondo globale che si evolve velocemente? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi e aspettiamo voi, giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.